Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Com'è bella questa sigla, non me la ricordavo, una settimana di assenza perché insomma nella vita succedono tante cose, ma tutto bene, siamo ancora qui, sono le 15 in punto, è il momento del sabato del villaggio. Prima di ricordarvi quello di cui parleremo, come si svolgerà il pomeriggio, tutti i nostri appuntamenti, l'account di Twitter, lasciatemi fare dei ringraziamenti per lo scorso sabato, grazie a Deborah Rosciani che ha accettato di sostituirmi all'ultimo momento, grazie a Daniele Bellasio che ha fatto RadioTube senza di me, insieme a Stefania Carini che mi ha sostituito egregiamente, grazie Stefania, e grazie a Cristian Goldoni che ha tenuto tutti insieme in una settimana veramente complicata, ma ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube, appunto insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, però anche voi mi raccomando tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, lo sapete, è l'SMS di Radio 24, ma anche il mio account di Twitter, sono qua con il mio tablet davanti, @MartaCagnola. L'hashtag sempre per chiusa Twitter, il sabato del villaggio è un po' lungo, quindi le iniziali cancelletto ISDV. Ma scopriamo subito insieme i temi della prima ora del sabato del villaggio. Ancora e sempre di più il cibo in televisione. Questa volta parliamo di un successo clamoroso di cui si sono accorti anche all'estero, per lui tanti fan e tantissime fan, Chef Rubio. Poi le tecnologie con Enrico Pagliarini, oggi un argomento amatissimo, gli smartphone. Le uscite al cinema con Franco D'Assisti, tutti i consigli per il weekend in sala e subito la comicità. Parlano tutti di lui questa settimana, i suoi video nelle home page di tutti i giornali online. È tornato anche clamorosamente a imitare Fabrizio Corona. Lui è ovviamente Giovanni Vernia. Se Fabrizio oggi è qui è perché vuole assolutamente dire due cose. La prima, che Fabrizio vuole assolutamente ringraziare tutte le assolutamente persone che hanno chiesto l'assolutamente grazia per Fabrizio al nostro assolutamente Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. E nello specifico Fabrizio vuole ringraziare il grande Adriano Celentano, il grande Rosario Fiorello e Marco Travaglio, anche se non lo so cosa canta questo. Ma Fabrizio voleva assolutamente ricordare a queste persone che prima della loro richiesta di grazia Fabrizio doveva assolutamente scontare 7 anni di pena. Dopo la loro richiesta di grazia a Fabrizio gli hanno dato un altro 1 anno e 4 mesi. E noi ce l'abbiamo in diretta, Ingegner Vernia, buon pomeriggio. Buongiorno, Radio 24, Marta Cagnola, buongiorno, mamma mia. Senti, ma com'è stata questa decisione di tornare a imitare Corona? No, cioè, non facile, dai. Ma no, perché poi sembra, adesso dal pezzo sembra che io ho deciso di tornare a imitarlo per prenderlo in giro, invece no. Io ho preso, diciamo, il caso di Fabrizio Corona per fare un po' di satira sulla giustizia italiana, no? Infatti poi il proseguo del pezzo, insomma, c'erano cose abbastanza pesanti che dicevo nelle vesti di Fabrizio Corona, no? Si parlava del caso di Schettino che no, non è stato messo in galera, ma questa giustizia giusta italiana, no? che dà una grande possibilità di riscatto a tutti, l'ha mandato a insegnare come si affonda una nave all'università, no? Con un processo, poi insomma con processi brevi, processi veloci, non come i processi da noi che durano tutti un eternit, no? Cioè, c'erano tutte queste cose nel pezzo, che cioè Corona è il pretesto per fare satira su nel nostro paese, cosa che ho visto che è stata molto apprezzata, insomma. Sì, poi, tra l'altro tu hai cominciato con personaggi assolutamente popolarissimi come Johnny Groove, sei entrato subito nell'immaginario soprattutto dei ragazzi, però la volontà di fare satira e di fare insomma discorsi un po' più... Ma penso che la comicità non debba essere sempre così innocua, no? La comicità è un'arma molto affilata per far riflettere sulle cose, perché appunto tramite la risata riesce a far riflettere su temi anche a volte molto scottanti, in questo caso quello della giustizia, oppure la satira politica, insomma, come ho fatto con il mio Casa Lecter, che è la parodia di Casaleggio, no? Nelle vesti del silenzio degli innocenti. Giovanni, ascoltiamolo, perché ne abbiamo un minuto anche qui, un brevissimo estratto, perché ha avuto un sacco di visualizzazioni in rete. Eccolo qua, Casa Lecter. Lei è di Rai 3? Sì, lo sono. Redazione di Ballarò. Vorrei farle alcune domande. Prego. Tu hai votato Renzi alle primarie, vero Clarisse? Ti sei fatta infinocchiare anche tu dalla storia degli 80 euro in busta paga, che al netto delle ritenute saranno sì e no 19,90 euro, vero? Questo non la riguarda, Casaleggio. Parliamo di lei. Lei è descritto come il guru, la mente occulta del movimento, colui che manovra tutto nell'ombra ed impone le sue decisioni. Io non impongo niente. Siete voi giornalisti. Zombie che camminano, che continuate a dire queste storielle. Nel movimento è la rete che decide, e lo fa sul blog, scegliendo sempre fra due democratiche opzioni. Sì, sono d'accordo. No, non sono d'accordo, e quindi vengo espulso e insultato pubblicamente. Beh, mica male questo Casa Lecter. Che reazioni hai avuto? Guarda, è piaciuto, tant'è che l'hanno trasmessa. È una cosa incredibile quella che è successa, perché è nato sul web questo progetto, e dal web insomma è andato sull'Espresso, che poi è una testata autorevole, no? Per quanto riguarda la satira, e quindi Johnny Groove che finisce sull'Espresso è una cosa abbastanza strana, no? E poi questo pezzo dal web è arrivato in televisione in mezzo a Satira Tira di Striscia la Notizia, quindi è un grande orgoglio per me, che appunto avevo i pantaloni muccati, andare a fare satira, no? È piaciuta la chiave di rendere Casaleggio Casa Lecter, quindi lui si comportava come Hannibal Lecter del senso degli innocenti. Il format, insomma, la radio non si può, però invito ad andarla a vedere sul web. Anzi, adesso twitto subito il link, così lo recuperiamo. La comicità in televisione, sai, è facile per lo spettatore, perché accende, vede sempre come, a volte dice, ma ogni tanto è da un po' che non lo vedo. Ma quanto è difficile riuscire a intercettare sempre i gusti del pubblico e farlo sempre ridere e fare sempre ascolti? Secondo me quello è... Allora, io quando faccio per esempio un personaggio o un monologo, insomma, non è che lo faccio pensando di intercettare un pubblico, io lo faccio pensando di divertirmi e di dare un messaggio. Poi il pubblico di conseguenza magari lo apprezza o non lo apprezza. Magari nel mio caso io sono fortunato, perché ho sempre idee che al pubblico, cioè, poi non a tutti, per carità, perché non è che piaccio a tutti, però insomma, piace a tanta gente, quella è la fortuna. Bisogna, secondo me, la cosa fondamentale è cercare di fare cose con gusto, cioè bisogna cercare di... bisogna fare una ricerca abbastanza approfondita quando si fa un personaggio, cioè non fermarsi alla prima cosa che viene in mente, no? Che magari può banalizzare anche la parodia, no? Se tu prendi un personaggio che è gay, è chiaro che la prima volta cosa che ti viene in mente per far ridere è giocare sulla sua omosessualità, ma è scontato ed è banale. E allora, se ti piace quel personaggio, vai a cercare un'altra chiave, no? E io faccio così, insomma. C'è qualche personaggio che tu vorresti imitare, che ci hai provato e dici, ma questo proprio invece non è imitabile? Guarda, questo personaggio che stai dicendo era Corona. Corona, quando l'ho pensato, quando mi ha colpito vederlo, insomma, in televisione e a me mi ha colpito, una volta l'ho visto presentare un talk show e allora ho detto, ma com'è possibile che in Italia non abbiamo un presentatore di talk show, proprio Corona devono prendere a presentare un talk show. E allora lì ho detto, caspita, Corona è da imitare, solo che non riuscivo perché la sua voce non è facilmente imitabile, anche il suo, cioè era un personaggio insomma abbastanza controverso, quindi non era facile renderlo simpatico al pubblico e mi stavo arrendendo. Poi a furia di martellare sono riuscito a trovare una chiave carina per farlo, però era quasi da abbandonare, ero lì per quasi abbandonarlo, sì. Nessuno ha avuto reazioni negative al fatto che tu sia tornato a imitarlo? Allora, all'inizio del pezzo, ho notato sui social, all'inizio del pezzo c'è stato, siccome non capivano dove andava a parare il pezzo, dicevano, ma guarda, questo qua si è messo a imitare uno che è poverino in galera e sta scontando una pena pesante, ma come si permette? Poi appena invece il pezzo, dopo le prime battute, che banalmente sono anche quelle che avete fatto sentire poi alla radio, quindi chiedo scusa a quelli che lo stanno pensando in questo momento, appena il pezzo ha virato, è andata subito a parlare dei casi della giustizia italiana, e c'è stato un'apoteosi. Se vai a vedere adesso sui social, i commenti sono tutti eccezionali sul pezzo, e anche insomma gli addetti ai lavori, quindi sono felicissimo di quello che è successo, perché anche a Zeri, insomma, un pezzo di questo tipo che è un po' più coraggioso era un po' una novità anche quella. Insomma, tralasciando Casaleggio e Corona per ovvie ragioni, gli altri che tu hai imitato, D'Amica, Jovanotti, che Mengoni, che reazioni hanno avuto? Che cosa ti hanno detto? Ma no, allora sono fantastici. Jovanotti, fantastico, ha un'autoironia pazzesca, anzi, come direbbe lui, pazzesca, no? Questa ironia che arriva dai popoli, dalla gente, ma soprattutto dall'energia di Radio 24, di questa radio dove presenta Marta Cagnola, no? E lui è così, lui parlerebbe ancora per due ore. Però l'ha presa molto con autoironia. Su Twitter ha subito fatto i complimenti, insomma, ci siamo sentiti, è stato molto carino. Stessa cosa Mengoni ha partecipato addirittura allo sketch prendendosi in giro da solo, perciò fantastico. Mica non pervenuto. Ah, non Mica, so. Appello a Mica, non Mica, so, da, un appello dacci. Mica, sì, se ti sono piaciuto, se ti sono arrivato, veramente, io vorrei sapere questa, sì? Sei okay. Straordinario Giovanni, e il cinema? Perché io ricordo appunto Tissimo il Fratello cinema. Che adesso? Sì, io ho già chiesto scusa per quello che ho fatto al cinema, quindi non credo che il cinema senta la mia mancanza. No, sto scherzando. Allora, il film, devo dire che Tissimo Fratello ha avuto poca fortuna al cinema ma tanta in televisione, perché ha fatto grandissimi risultati in TV e siamo felicissimi. E quindi sulla base di quello stiamo adesso proprio proponendo un soggetto nuovo per un film. Bello. Però non è un film, un po', diciamo, una commedia all'italiana, quindi non è ancora in prosecuzioni con personaggi, con cose. I personaggi secondo me adesso sono più televisione e basta, quindi neanche quasi teatro, sono solo robe televisive. Al cinema bisogna fare cose un po' più realistiche, insomma. Cioè, ecco, al cinema l'evoluzione è quella di prendere spunto dalla nostra realtà per far ridere sulla nostra realtà, che poi è quello che facevano i grandi, no, della commedia italiana. Straordinario. Giovanni, adesso... Ma io non ce la farò sicuramente. Quindi... No, vabbè, ma io sono qua, ormai sono qua che aspetto. No, adesso io sono qua che aspetto, tutti gli ascoltatori del Sabato del Villaggio sono qua che aspetto. È come Marta Cagnola aspetta, no? L'aspetto, che è questa attesa pazzesca, no? Che arriva dalle piccole cose, no? Come il tempo, che comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato, no Marta? Ma io ti adoro. Questo concetto pazzesco che sto esprimendo qui alla radio, che amplifica i pensieri della gente, no? Senti, adesso invece che cosa stai facendo? Sei in giro, teatro, cose? Adesso sono fuori da un locale a Milano che mi hanno portato il toast e ancora non ho mangiato. No, adesso ti lasciamo mangiare il toast. No, freddo. Sto scherzando. Toast freddo, che orrore. Adesso sarò con voi un'ora e mezza, perché tanto ormai il toast è freddo. No, adesso sto facendo un teatro, poi vabbè, se c'è un tour di date che vabbè, li potete adesso io non me la ricordo neanche. Ma hanno detto che la prima è Bologna il 4 dicembre, sono preparata. Brava Marta, grandissima. Comunque sui social che tu hai citato prima c'è tutto, quindi se, sul mio sito, sui social ci sono tutte. E basta, adesso la prossima sfida è presentare una puntata di Zelig. Straordinario, bello, bello. Social chiocciola Giovanni Vernia, io ho già twittato tutti i video, che così possono vedere il Corona integrale e anche il Casaleggio integrale. Io ti devo ringraziare tanto e ti lascio, fatti riscaldare il toast, perché, sì, freddo fa proprio schifo, mi dispiace. Grazie, grazie mille ragazzi. Grazie Giovanni. Grazie, grazie, no, hanno detto che lo riscaldano. A presto Giovanni, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie mille. Noi ci ritroviamo tra poco dopo le indicazioni del traffico. Il sabato del villaggio. Oh, ci sono un sacco di colleghi conduttori di Radio 24 che dicono le interruzioni per il traffico, che noia. Io sarà che sono pendolare, ma secondo me sono utilissime. Poi immagino quanti di voi sono in macchina in questo momento per fare i loro giretti, per magari cominciare a fare qualche acquisto di Natale. Parleremo anche di questo, quindi state insieme a noi perché abbiamo moltissimi consigli utili, però parliamo anche, come sempre, tanto dei fenomeni della TV, fenomeni mediatici, fenomeni di costume. Il nostro numero per gli sms 349-238-6666 per contattarci su Twitter e per seguire anche un po' quello di cui parliamo. Ad esempio adesso abbiamo twittato tutti i video di cui parlavamo con Giovanni Vernia, c'è il mio account, è molto semplice, chiocciola Marta Cagnola, e poi c'è l'hashtag ISDV. Ma abbiamo parlato di fenomeni TV, fenomeni mediatici, fenomeni di costume, e ve li facciamo conoscere personalmente questi personaggi straordinari. Lui è amatissimo dai fan, e io ve l'ho detto, anche dalle fan. Poi io vi racconto delle cose, tanto ce l'abbiamo già al telefono. Vabbè, io vi faccio sentire un pezzettino della sua voce, dalla sua ultima fatica televisiva. Chissà se lo riconoscete subito, eccolo qua. La battaglia è alle porte. Sono tre cacciatori di talenti. Sono abituati a tutto, ma questa è la loro prova più dura. Trovare quello che cercano. Cuore, passione, coraggio, tecnica. È solo una questione di tecnica. Il risultato finale conta solo questo. Inseguono il primo re della griglia. Il sogno di 9 concorrenti giunti da ogni parte d'Italia. Dovranno superare ostacoli e difficoltà, armarsi di fuoco e coltelli. Alla fine ne rimarrà solo uno. Ma mica di noi, eh? Namo va. Namo va, chef Rubio, buongiorno. Ciao a tutti ragazzi. Io ti adoro. Gabriele. Il narratore era molto meglio della mia, però. No, senti, la tua voce è straordinaria. Mi ha detto Christian in regia che tu sei nascosto dietro a un distributore di snack di una stazione, che non dirò. No, proprio il carrettino dentro al vagone, perché no, è partito il treno. Urca, allora speriamo che non diciamo su che treno sei, sennò arrivano i fan. No, Roma-Milano. Le fan. Allora, Gabriele, io ricordo, io ti ho incontrato un paio di volte a Rimini, dove tu hai fatto delle cose molto carine, ma tonnellate di fan, cioè donne proprio che ti amano alla follia, ma una cosa impressionante. Motivatamente, poi io non so che che ci vedranno di bello. E ci vedranno un uomo intanto prestante e che cucina, e cucina roba vera, cioè dopo. Ma diciamo che mi camuffo bene, eh? Non è che i tempi gloriosi del rugby che mi portavo dietro stanno finendo. Quindi ecco, tra poco ti faccio parlare anche di rugby. Allora, cucina in televisione in tutti i modi: primi, secondi, dolci. Tra poco arriviamo al limoncello, alla Macedonia, non c'è più niente. Però tu hai trovato altri due filoni, tra virgolette, filoni di pane a questo punto. Sì. Cioè lo street food e la griglia. E questa è stata la tua prima, intanto treni. ma è diretta, va bene così. E la griglia che ci sembrava una roba un po' più americana, invece tu l'hai resa nostra. Ma era già nostra, io l'ho solo riportata a noi. Siamo noi che quando creiamo qualcosa e ci sembra super, poi ce ne dimentichiamo e aspettiamo che siano gli altri dall'estero a ricordarci quanto è bello quello che abbiamo inventato. Quindi ho semplicemente riportato a conoscenza quello che ci serviva, quello che era nostro. Io per raccontare un po' il fenomeno non solo di Chef Rubio ma anche di Di Max, segnalo che ha appena vinto la categoria Lifestyle agli Eutelsat TV Awards 2014. L'hai ritirato tu il premio, sei andato tu sul palco a prendere la statuetta. Ero di zona, mi hanno chiesto di passare hanno di tutta quanta Di Max, che poi alla fine non è formata altro che dal popolo, ho ritirato il premio di tutti quanti alla fine. Straordinario. Voglio sentire un altro pezzettino di un'altra trasmissione, che è quella poi con la quale ti abbiamo conosciuto. Eccolo qua, siamo ungiamoci un po', ecco qua. Mi manda Nunzia, dice che sei il principe della Dieghia. Qualcosa sappiamo fare. Che c'è stata dentro? C'è proprio una di queste. Nello specifico si chiama patate, riso e cozze. Famosissimo patate e riso. Un piatto tipico nostro. C'hai fame? Beh, un pochino, sì. Visto che ti trovi, siediti. Avanti. Mamma mia, non me lo faccio ripetere due volte. La cozza, eh? Vai. Sei pure fortunato, oggi abbiamo trovato le cozze nostre. Che fame, nascondi? Buone. Si vede che non sei di Bari. Vedi come si mangia la cozza da noi? Si prende risucchietto e vai tranquillo. Unti e bisunti. Tra l'altro, insomma, unti e bisunti, fenomeno in Italia. Ma la diamo la notizia, Gabriele? La diamola. Niente, che il 13 dicembre trasmetteranno in Spagna Unti e Bisunti con un doppiaggio lievemente sfasato, in modo da far capire la provenienza del sottoscritto qualora non fosse ben chiaro pure in Spagna. Quindi niente, ci sarà la prima, la seconda serie a disposizione anche degli italiani che stanno in Erasmus là, quindi magari se la vedranno in televisione diranno: io questo non capisco cosa dice, sono di Bergamo e il romano non capisco. ma poi è una cosa bella, nel senso che ci sei tu, non vieni tradotto, ma si conserva Chef Rubio, è una cosa importante questa. Certo, vabbè, alla fine vedranno che non sono biondo, perché per loro Rubio è biondo. È vero. Ci faranno qualche domanda, gli darò qualche risposta con un castano e un cognome, che magari è quello il motivo per cui è stato dato Rubio. Cioè, ho realizzato mentre lo dicevi, 4 anni di spagnolo all'università buttati alle ortiche. Beh, però a questo punto tu porterai grandi serate avrei fatto. Certo, ovvio. Quindi porti anche queste tradizioni culinarie in Spagna, quindi fai anche da ambasciatore, fighissimo. Diciamo che loro non hanno nulla di che invidiarsi, perché certo, Stanno coperti benissimo per quanto riguarda il cibo, anche per quanto riguarda il cibo di strada, però è un modo come un altro per mostrare il nostro patrimonio e magari creare una sorta di gemellaggio, vedere un attimo se tutelando noi si può tutelare una nazione e poi via dicendo tutto il mondo. Ambizioso come progetto, però vediamo. Dal 13 dicembre hai detto? Sì. Io ti ho prima invece chiesto del rugby, perché tu hai fatto anche il cacciatore di tifosi per avvicinare gli italiani al rugby, perché insomma hai anche un passato, cioè sto fisicone non è mica per caso, diciamolo, Gabriele. C'avevo. No, e ce l'hai ancora. Vabbè, io ti ho visto 2 mesi fa, non puoi essermi crollato in 2 mesi, dai, su, su. Modestone. In 2 mesi una disfatta proprio. Una debacle. No, sono stato sia amatoriale che pro nel rugby, 18 anni, e fra le varie cose buone che mi sono permesso di ricevere da questo sport, oltre al fisico, sono tante amicizie, tanti bei valori, quindi ho cercato con il programma di portarlo a casa di persone che non lo conoscevano, che non sapevano di cosa si trattasse, quindi speriamo che l'antipasto dell'anno scorso sia servito un attimino ad avvicinare le persone che non conoscevano questo sport e capire che magari sono tanti valori che vanno anche al di fuori del campo di rugby. Mi piace un sacco. Senti, ma si Re della Griglia quando si sa? Quando vinciamo? Lunedì. C'è la finale alle 21:10 e capiremo chi ci rappresenterà in Svezia nel 2015 ai mondiali di barbecue. Straordinari mondiali di barbecue. Ma si può andare a Sisi? Andiamoci. A maggio mi tengo libero. Vai, fantastico. Andiamo ai mondiali di barbecue. Già sento il profumino perché sono le 15:26. Ho prezzato da poco. Metto di mangiare adesso per arrivare a stomaco vuoto a maggio. Straordinario. Allora, tutti gli appuntamenti: lunedì la finale, poi sì. 13 dicembre, adesso lo twitto anche, Chef Rubio da esportazione, un sacco di belle cose, un fenomeno TV, un fenomeno di costume, ma un ragazzo un sacco simpatico e che sta molto al gioco e molto allo scherzo e che poi piace appunto un sacco alle femmine. Ma bisogna prendersi poco sul serio, dai, basta. Sono d'accordo con te. Grazie Gabriele, grazie a Chef Rubio per essere stato con noi. Ciao, grazie a voi. Che meraviglia. E poi ha retto la telefonata. Era in treno, ma abbiamo avuto la fortuna che la telefonata reggesse. Ma ogni tanto. Allora, adesso twitto subito la notizia dal 13 di... oggi niente, ma proprio si vede che la settimana di pausa. Adesso lo dico piano: dal 13 dicembre, Chef Rubio lo esportiamo in Spagna, però ce lo teniamo stretto e non lo facciamo scappare, mica facciamo la fuga del cervello di Chef Rubio, semplicemente porterà un po' delle nostre tradizioni anche all'estero e questa è un'ottima notizia. Noi abbiamo ancora un sacco di tempo per stare insieme perché è passata solo la prima mezz'ora del sabato del villaggio. Tra poco parliamo di tecnologie, parliamo di un argomento che piace sempre tantissimo a tutti, sono gli smartphone. È il primo weekend dei grandi acquisti natalizi, ne parleremo molto in questo sabato e da questo sabato, anche perché abbiamo bisogno di consigli oculati per scegliere in maniera giusta, magari anche per risparmiare, per non sbagliare. Noi abbiamo un sacco di esperti, tra poco sarà qui, già lo vedo che è alla sua scrivania in redazione, dallo studio si vede Enrico Pagliarini, tra poco arriverà. Io vi ripeto i numeri per tenerci compagnia, il numero degli sms che è 349-238-6666 e io gli sms ce li ho davanti, ma anche il mio account di Twitter, la cosa più semplice, @MartaCagnola e l'hashtag cancelletto ISDV come il sabato del villaggio. Noi ci ritroviamo tra poco dopo una brevissima pausa e poi parleremo di tecnologia appunto con Enrico Pagliarini. A tra poco. Il sabato del villaggio. Eccoci insieme, sono le 15:33 minuti e 33 secondi a Radio 24, il nostro sabato pomeriggio in diretta, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, ma anche nelle grandi tendenze, i grandi fenomeni di costume. Nella prima mezz'ora abbiamo avuto due ospiti che io ho amato particolarmente perché sono simpatici, sono carini, sono anche due bei ragazzi, sono molto in gamba, Giovanni Vernia e Chef Rubio, veramente due fenomeni non per caso, perché veramente sono due ragazzi di grande valore. Il terzo ragazzo di grande valore ce l'ho qui in studio accanto a me, però aspetta palesarti, voglio farti sentire una musica. Enrico Pagliarini, bellissima questa. Allora, perché hai voluto questa Star Wars? Allora, è una suoneria di un cellulare, poi spieghiamo di chi. No, devi sapere che gli ascoltatori piacciono molto le storie interne di Radio 1. Io intanto svelo qualcosa di quello che succede qua però, in redazione. Però, abbiamo scelto la colonna sonora di Guerre Stellari perché questa settimana, gli appassionati lo sanno, è uscito il... non so se chiamarlo pre-trailer, il primissimo trailer di una roba che arriva però il prossimo anno, a dicembre 2015. Ah, proprio un assaggininininino allora. Sono rimasto un po' deluso perché mi aspettavo un po' di più, non è che si veda tantissimo, però chi è appassionato di Guerre Stellari era lì, sì, che aspettava appena l'hanno pubblicata tutti a vedere questo. Detto questo, quindi se non avete visto il pre-trailer di Guerre Stellari del nuovo episodio che arriverà nel dicembre 2015, andatevelo a vedere, rimarrete delusi, però... Però vabbè, visto. Sappiate di non dovervi aspettare con moltissimo. Le cuffie o con due belle bei diffusori potenti, perché il suono è importante, sì, l'immagine è metà dell'esperienza. Dunque, dovete sapere che la nostra collega Adriana Fracchia per qualche anno chissà se ci sta aveva come, come suoneria del proprio telefonino è vero, la colonna sonora di Guerre Stellari, e ogni tanto in redazione partiva questa colonna sonora di Guerre Stellari. Poi, noi le urlavamo dietro qualsiasi perché era cosa. Bella potenza, insomma. Noi oggi abbiamo pensato che potremmo parlare di non più di cellulari, di smartphone. Oddio, è vero che ci sono anche dei cestoni con dei telefonini a 29 euro? Sai che io a mio papà ho comprato un cellulare 29 euro perché lui telefona e manda gli sms, per internet usa il computer. Perfetto. E almeno la batteria, avevamo già parlato qualche puntata fa del problema delle batterie, la batteria gli dura 2 giorni. Perfetto, intanto, scelta ottima, esistono. Ottima scelta, esatto. Quello è, ecco, per quella scelta non bisogna nemmeno pensare. Uno entra in un negozio alla cieca, proprio bendato, mette le mani nel cestone, prende, va benissimo. Telefonare, sms e magari qualche foto, esatto. Bassa risoluzione. Sì, basta. Sì, esatto, basta così. Problema che ci siamo creati un sacco di problemi negli ultimi anni. E la prima cosa che vorrei dire: non acquistate uno smartphone senza pensarci un po', cioè non entrate in un negozio lasciandovi convincere da chi ve li vende e portare a casa lo smartphone. Non fatelo, dedicate un po' di tempo a questa cosa. Seconda cosa, è vero che ci stiamo avvicinando al Natale e sicuramente noi parliamo oggi, magari parleremo anche in una delle prossime puntate di smartphone, ma io sconsiglierei di regalare uno smartphone. Oh, affermazione pesantissima. Mi spiego. Allora, ci sono pochissime cose personali come lo smartphone. Ci passa in mezzo alla nostra vita. Quindi o conosciamo benissimo la persona, o la persona ce l'ha ordinato, cioè dice voglio quello, o ha fatto la letterina di Babbo Natale magari con sui le specifiche siti. Sì, sui siti con l'alterina. Le specifiche, esatto. Ecco, altrimenti io non andrei, mentre molte altre cose, che ne so, un bel abito, un bel libro, qualsiasi altra cosa. Lo smartphone è come il profumo, troppo personale. Esatto, ma secondo me col profumo ci si becca un po' di più, perché è molto complicato, molto complicato. Quindi io non lo regalerei. Lo lascerei alla scelta personale di dichiarare un po' di tempo. Cosa comprare? Qui è il problema. Allora, se avete un bel budget, non vi fate tanti, anche ecco, in quel caso non pensateci troppo. Se avete soldi da spendere, ma un sacco di soldi, più di 700 euro, andate tranquillamente su iPhone, perché effettivamente ancora oggi l'esperienza completa, potremmo parlare per 8 ore, quando qualcuno mi chiede scusa, mi consigli cosa devo comprare, e io dico hai 15-20 minuti, mezz'ora di tempo, già lì alcuni scappano. Quindi oggi non potremo dire tantissimo, però sicuramente se uno ha budget, quella è una scelta. Se uno viaggia, potrebbe anche scegliere di acquistarlo all'estero, perché ho fatto un calcolo questa mattina: in Gran Bretagna iPhone 6 costa 677, tradotti in euro, euro 677 euro, a confronto della versione base si parte da 729 in Italia. Abbiamo l'IVA un po' più, ci sono un sacco di altre cose, anche l'equo compenso SIAE che va pagato su del quale hai parlato molto a 2024. Sì. Quindi se uno viaggia all'estero, certo, come dire, non pagando l'IVA in Italia la paghi in Gran Bretagna, non è eticamente da cittadino, non vabbè, però insomma risparmi un sacco di soldi. Dopodiché un'altra cosa che io vorrei dire, poi parliamo anche degli altri sistemi operativi, forse una delle prime cose a cui pensare è la dimensione. Fregatevene dei quad core, dual core, tutte le altre caratteristiche, perché ormai, visto che quasi tutti i prodotti si sono evoluti negli ultimi anni, molti prodotti, se li andiamo a guardare per fasce di prezzo, grosso modo si equivalgono, quindi chi se ne frega. Invece un elemento molto importante, avrete visto che negli ultimi tempi abbiamo smartphone di tutte le dimensioni. Sì. E quindi uno si deve fare un po' un esame di coscienza e dice: ho il tablet, magari compro uno smartphone con lo schermo non tanto grande. Non ho il tablet, compro uno smartphone con uno schermo un po' più grande che si chiama phablet. Phablet. Sì, è un mix tra smartphone e tablet. e quindi potrei comprare un prodotto del genere. Però magari devo usarlo con gli auricolari, perché sennò faccio ridere con il coso. Ah, per telefonare? Sì. Ah, sì, sì, però potresti far ridere, cioè, potresti certo, scegliere perché di far, no? Ma appunto, siamo tutti liberi. Quindi io penso che la dimensione sia una cosa importante, perché tornando a quello che non dicevo, non faremo prima, battute a doppi sensi. Ecco, visto che ce lo portiamo dietro tutti i giorni, se compriamo una cosa che magari è troppo grossa e non giriamo con la borsetta o lo zaino e ce lo dobbiamo infilare da qualche questo parte, diciamo che questo è più un problema maschile, perché noi femmine solito abbiamo la borsetta. Sì, sì. Io ho lo zainetto perché ho dentro un sacco di cose che non posso non avere, e quindi questa secondo me è la prima, è una delle prime cose. Seconda cosa, sistema operativo, anche qui ci buttiamo dentro ad una piscina con colori diversi, e quindi dobbiamo scegliere nei prossimi mesi, anni, in quale piscina dobbiamo buttarci. Allora, sicuramente, ripeto quello che ho detto prima, se il nostro budget ce lo permette, iOS, che è il sistema operativo di Apple, ci offre tantissimo, qualsiasi applicazione ad esempio che esce, esce prima per iOS e poi per altri. Ultimamente devo dire che esce contemporaneamente per iOS e Android, quindi Android si è sicuramente sviluppato moltissimo, è diventata una piattaforma molto matura. Però se devo dire la verità, piuttosto che spendere 600 euro per un top di gamma Android, beh, devo dire aggiungo qualcosa oppure non aggiungo quasi niente, prendo magari la versione vecchia di iPhone e quindi sicuramente mi trovo, sono soddisfatto. Android offre un, non una piscina ma un mare, un oceano, perché ci sono prodotti di tutti i tipi, anche gli ultimi che stanno arrivando dalla Cina a vagonate. Sconsiglierei di comprare un prodotto sconosciuto, soprattutto per motivi di aggiornamento software. Comprate un prodotto di marca, conosciuto, perché la marca vi garantisce, non sempre, però vi garantisce spesso un aggiornamento continuo. E qui, andrei... qui siamo però un po' più, i prezzi sono un po' più vari diciamo, ecco. Così, sicuramente i top di gamma, allora dico tre o quattro brand giusto per orientarci, tra i migliori smartphone Android, HTC One, bellissimo. Sony fa ancora degli smartphone meravigliosi, LG ha fatto ultimamente dei prodotti molto buoni, è maturata moltissimo, ad esempio l'ultimo G3 è fantastico. Uno potrebbe scegliere di essere più rigoroso e andare verso il prodotto di Google, quindi con un Android più puro, perché di Android non è che ce n'è uno, ce ne sono mille, ogni produttore poi lo aggiorna, se lo disegna a propria immagine e somiglianza, se ci riesce. Nexus ad esempio è una scelta che può essere fatta, e qui troviamo prezzi di tutti i tipi. Però ripeto, se stiamo in una fascia media, valutiamo anche Android. Ultimo, ma non meno importante, diciamo ultimo arrivato, Microsoft. Sapete che si è comprato Nokia, sapete, certo, che ha Windows Phone, ottimo prodotto. Anzi, nella mia classifica personale metterei iOS per primo, Windows Phone per secondo, una piattaforma molto moderna con una grafica molto molto moderna, e come terzo Android. Devo anche dire che le distanze non sono tanto elevate, ultimamente per l'utente medio quasi quasi mi verrebbe da dire che uno smartphone vale un altro. Però le differenze ci sono sicuramente delle differenze anche come disponibilità di applicazioni. È vero che per Windows Phone ci sono un po' meno applicazioni e magari le applicazioni escono con un filo di ritardo rispetto agli altri. Però ad esempio il Lumia 930 è un top di gamma molto bello, oppure un consiglio potrebbe essere il 520, che si trova, un prodotto che non è nuovissimo ma si trova a 100 euro, quindi beh, è una roba quasi da cestone, no? Certo. Che non è male. Però potremmo, Enrico, continuare per 8 ore. Adesso però abbiamo il traffico. Ti chiedo, yes, solo un flash, perché Alessandro su Twitter consiglia di prendere, lui in particolare parla di iPhone da 64 giga e non 16 giga. La memoria è importante? Sì, la memoria è importante. Sì. Cioè, purtroppo in questo caso le dimensioni contano. Sì, esattamente, sì. Questo è un altro elemento su cui dovremmo fare una puntata a parte, perché è vero che se io compro uno smartphone che ha poca memoria, ad un certo punto devo decidere di cancellare delle fotografie, di cancellare dei video, oppure togliere delle applicazioni, fare scambio di applicazioni. È certo, insomma, è come dire avere la casa grande o la casa piccola, no? Ci posso mettere poca roba. Sì. Enrico, purtroppo. Io tra poco ti chiedo come al solito un consiglio per un'app da scaricare. Adesso però è il momento delle indicazioni per chi sta viaggiando. Ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme, Enrico. Di cosa ci pare? Adesso io sto per twittare una foto. Il nostro ascoltatore dice: perché ignorate sempre BlackBerry? Allora, figuratevi, noi siamo BlackBerry dipendenti, sì, la nostra azienda è BlackBerry, però è un prodotto aziendale oramai, cioè diciamo che nel consumer, per stessa ammissione di BlackBerry, c'è spazio per altri, e quindi è una per le aziende non è una piattaforma straordinaria. Non abbiamo preclusioni perché siamo i primi ad usarlo. Sì. Adesso twitto la foto di cosa, dell'app che ci allora questa è un'app, sempre tornando a quello che dicevamo prima, che le app escono prima per iOS e a volte si mantengono solo su iOS. Cioè questa, allora, il tema è scrivere col dito o anche con dei pennini apposta, però col dito sul tablet. C'è un'applicazione bellissima che si chiama Paper, come la carta, detta in inglese. Purtroppo molti nomi di applicazioni sono in inglese, quindi a volte nello spelling ci sfuggono alcune parole. Paper ci permette appunto di disegnare, di fare delle cose bellissime. È gratuita, però se vogliamo comprare la penna gratis, la versione base, sì. Se vogliamo una matitona un po' più grossa dobbiamo pagare, e ci sono vari colori, insomma se il disegno diventa un po' più complesso dobbiamo pagare qualche soldo. A me viene da ridere perché a volte vedo che un'app costa un euro e qualcosa, dico, ma costa tanto, poi realizzo invece che comunque è un però po' poco. Ci sono tante, ad esempio ne cito un'altra, Penultimate, che è un gioco di parole tra la pen e penultime. Allora, Penultimate è sia per iOS che per Android, permette anche in questo caso di disegnare. Sono molto belle queste app per i bambini, ad esempio, per fare dei disegni invece che sulla carta, fategli fare anche sulla carta, ma anche sul tablet, invece di fare dei giochi stupidi, fategli fare magari dei bei disegni con le sfumature, si riescono a realizzare cose molto belle. Ce n'è un'altra che si chiama Bamboo Paper, per tutte le piattaforme, anche per Windows Phone. Bamboo, come il bambù con due O finali, Paper. Ma la lista si potrebbe allungare all'infinito, quindi se vi mettete a cercare le applicazioni che vi permettono di scrivere, di disegnare, di prendere, più che prendere appunti, proprio di disegnare, di fare degli schizzi, sono molto belle, molto divertenti e anche penso molto utili per i bambini. C'è una lista molto lunga. Twittacene qualcuna che sì. Adesso ti retwitto. Grazie Enrico per essere stato con noi anche a questo sabato del villaggio. Grazie mille. I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. E sono nono giorno consecutivo in testa al botteghino italiano per Hunger Games, Il canto della rivolta parte 1, ma sono sempre più vicini i pinguini di Madagascar, che hanno già messo la freccia per il sorpasso definitivo in questo fine settimana. Ma cosa dobbiamo andare a vedere al cinema? I consigli, come al solito, di Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Un saluto Marta. Sei in viaggio perché sì. Oggi trasmetti in esterna. Direzione Fiera di Milano per il Salone Forum Agenti di Commercio. Ormai è diventata una piccola tradizione quella di andare in onda da lì e così raccontare un po' il cinema e, come abbiamo fatto l'anno scorso, anche raccontare la figura dell'agente di commercio nel cinema, del venditore, che molto spesso è una figura molto cinematografica. Pensiamo insomma a tanti film del passato, con questo anche mi viene in mente Al Pacino, gli americani per esempio, eccetera, insomma una figura molto molto importante. Bello, insomma, mi piace. Dalle 18 quindi io ti ascolto mentre torno a casa dopo il sabato del villaggio. Io ho citato i pinguini di Madagascar, lo andiamo a vedere, si va a vedere con i bambini? È obbligatorio, temo che non si possa sfuggire. Sì, io ti dico, ci sono due letture a mio modo di vedere. Una è quella family, per cui è sicuramente un prodotto straordinario, con tutta la qualità ovviamente dei creatori di Madagascar, quindi questi personaggi che danno vita a un vero e proprio spin-off del film, perché sono personaggi che hanno avuto grande simpatia nella saga di Madagascar e adesso si prendono un film tutto loro dove sono protagonisti, come sempre un po' a metà fra il soldato e il cialtrone, però sono delle figure che sono diventate molto, molto importanti anche nelle cartoni animati in televisione, perché c'è una serie sui pinguini di Madagascar che i nostri bambini vedono e quindi il successo è assicurato, le risate ci sono. A mio modo di vedere, così come film in sé, forse non è che abbia tutta quella forza che ha invece Madagascar, cioè gli mancano le vedette, Alex, la giraffa, eccetera, però è una cosa molto divertente, molto ritmata e tutto sommato riprende quello che è il plot degli episodi di Madagascar, cioè si trovano a fare un po' da spie in situazioni tra il grottesco e come dire, è divertente, insomma la pagnotta la porta a casa, ma è sicuramente un film in 3D, tra l'altro, che, come dire, può tenere insieme sicuramente tutta la famiglia. Qualcuno ha parlato già di anticine panettone per ogni maledetto Natale, commedia che porta la firma della squadra di Boris, per capirci: Mattia Torre, Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico, Cattelan, Gianlini, Guzzanti, Mastronardi, Massandrea. Si va a vederlo questo ogni maledetto Natale? Beh, il tentativo è interessante, hai detto bene, Marta, è proprio l'anticinepanettone, nel senso che è vero che c'è il Natale di mezzo, ma è vero che viene preso a sberle praticamente dal primo all'ultimo minuto, un po' forse più figlio di quello che provò a fare il grande Mario Monicelli con Parenti Serpenti, no? Cioè cercare di fare diventare le feste natalizie l'elemento scatenante di una serie di regolamenti di conti in famiglia, perché insomma basta con il tuo buonismo del Natale che sempre accomuna tutti, tante volte è proprio un momento in cui ti vedi con gente che forse manco avresti voglia. In questo caso loro la leggono così, c'è il sarcasmo della band di Boris ed è sicuramente un tentativo di fare in questo momento una commedia sicuramente diversa da quelle che si vedono, da quelle un po' stereotipate che una alla settimana arrivano un po' tutte con lo stesso passo, un po' tutte con gli stessi attori. Ecco, qui c'è il tentativo di fare qualcosa di diverso, quindi tutto sommato è una visione che consiglio. Passiamo, abbiamo parlato, film da vedere in famiglia, la grande uscita della commedia. Ti chiedo anche magari però qualche film un po' più cinefil, un po' più ricercato, e quelli da non perdere per parlarne insomma con gli amici, per i grandi appassionati. Ma guarda, ce ne sono due che voglio segnalare, Marta. Uno è Trash di Stephen Daldry, che è il regista di Billy Elliot, per intenderci, che prova con una produzione importante, perché è un film insomma di grandi capitali anche questo, anche se gli attori poi al di là di Rooney Mara e Martin Sheen, che hanno però ruoli un pochino defilati, insomma gli attori non sono famosissimi, però tenta, dicevo, di fare una sorta di The Millionaire in salsa brasiliana. Siamo in una favela di Rio de Janeiro, due bambini, due ragazzini in una discarica, di quelli che stanno sempre nelle discariche a cercare qualcosa da rivendere, trovano un portafogli con dei documenti importanti, sono troppo importanti, e i ragazzini finiscono nel mirino di malavitosi tra malavitosi e poliziotti che li vogliono fare fuori. Quindi c'è anche qui la fuga, c'è anche qui lo scappare da qualcosa, c'è anche qui il tentativo di scappare dalla povertà, un po' come in The Millionaire. Forse manca quel respiro epico che c'era nel film che vinse l'Oscar, qui ce n'è un po' meno, qualche concessione di troppo a dei momenti di romanticismo anche forse stonati, però ecco, è un film di quel tipo, questo Trash, e per chi ha amato Millionaire secondo me è una visione che si può fare. Pochi secondi per l'altra segnalazione? Ecco, guarda, ti segnalo in pochi secondi Melbourne invece, che è un film che, a dispetto del titolo, è un film iraniano, che racconta di una coppia all'interno di questa casa che sta per emigrare a Melbourne. Sono pronte le valigie, l'appartamento è vuoto, una vicina gli affida una bambina, questa bambina a un certo punto non respira più, e questo succede soprattutto all'inizio, e tutto il film è un film sul senso di responsabilità, su che cosa fare, sulle scelte difficili, nascondere, dirlo, provare a far finta di niente, provare a partire lo stesso per Melbourne. È un film che racconta molto anche della società iraniana di oggi. Il protagonista, Payman Mahdi, è uno dei più grandi attori, non solo iraniani, ma sta diventando importante anche a livello internazionale, ha appena fatto un film con Kristen Stewart e sarà nostro ospite alla Rosa Purpura in un'intervista esclusiva. Grazie Franco, ci risentiamo alle 18, adesso è il momento del giornale radio, c'è Gigi Donelli che già sta entrando in studio. Vi dico solo due nomi per la prossima ora del Sabato del Villaggio: Tiziano Ferro, Pier Francesco Favino. A tra poco. Il Sabato del Villaggio. Eccoci, ci siamo con la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, sempre con Marta Cagnola. Il Sabato del Villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze, anche con i grandi personaggi che ci fanno parlare, che ci fanno appassionare, che ci fanno discutere. Stiamo insieme fino alle 18, poi dalle 17 alle 18 la terza ora sarà quella di RadioTube con Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma voi tenetemi compagnia, continuate a farlo con i vostri sms al 349-238-6666, ma soprattutto via Twitter. Io davanti a me ho il mio tablet, il mio account chiocciola Marta Cagnola, mi piace perché interagiamo molto e ho anche l'opportunità di postarvi delle foto molto carine, tutti i link delle cose di cui stiamo parlando. Cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Hashtag ISDV, le iniziali. I libri con tutti i primi consigli per i regali natalizi di Alessandra Tedesco. Ancora poi i primi consigli per le feste in fatto di acquisti e le tendenze di Maria Luisa Pezzali, ma con un'indicazione preziosissima per fare del bene questo fine settimana. E poi ancora le nuove tendenze, le strategie anticrisi, poi parleremo di fiction italiane, molto importante, qualcosa che andrà in onda all'inizio della prossima settimana, lo scopriremo tra poco col suo grande protagonista Pierfrancesco Favino, ma prima parliamo del cantautore del momento, che è anche un uomo straordinario. Senza scappare mai più. Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò. E vorrei imparare di imitarti a io l'ascolterei tutta, altro che parlare. Però io voglio sentire parlare lui, Tiziano Ferro. Sulle copertine di tutti i giornali questa settimana, meravigliosa la copertina di Vanity Fair. Senza scappare mai più, eccola qua, è stato il brano più trasmesso da tutte le radio italiane nell'ultima settimana. L'album TZN, The Best of Tiziano Ferro, in vetta alla classifica in poche ore, la classifica digitale di iTunes, è l'album più venduto del momento. Insomma, lui domina tutto e tutti. Ma perché ha deciso di fare una raccolta? Lui è l'unico artista che dà una spiegazione molto intelligente. Io l'ho incontrato qualche giorno fa e l'ho convinto anche, non ho resistito, a parlare d'amore, ma intanto della raccolta The Best of Tiziano Ferro, il grandissimo fenomeno del momento. Tiziano. Ma era un progetto che ho sempre voluto realizzare da quando ero piccolo, quando sognavo di fare il cantante e acquistavo le raccolte dei cantanti famosi. Tra i tanti sogni che avevo dicevo, guarda, se io farò mai il cantante vorrò fare una raccolta. Mi piacevano le raccolte perché io venivo, cioè la mia adolescenza l'ho vissuta nel passaggio da vinile a CD, quindi avere una raccolta significava riuscire finalmente ad avere in linguaggio digitale tutte le canzoni più belle di un artista e non avere la scomodità del vinile o delle cassette, perché ero un grande cultore delle cassette. Quindi mi piacevano le raccolte e poi mi piacevano perché comunque riuscivo a scoprire degli artisti che magari prima di quel momento non avevo mai conosciuto a fondo e che iniziavo a scoprire dai successi, poi magari tornavo indietro e compravo i dischi precedenti, per cui volevo farlo. L'ho voluto fare adesso perché ho trovato il modo di farlo, perché mi è venuta l'idea felice di andare a recuperare tanto materiale, non soltanto quello conosciuto dal 2001 in poi, da Perdono in poi, ma anche quello che non è mai stato pubblicato, perché comunque per me che ho pubblicato per la prima volta un disco nel 2001, ci sono stati tanti pregressi che poi mi hanno portato alla pubblicazione di quel disco, per cui ho deciso di raccontare la storia, ma di farlo dal principio veramente. Nel booklet c'è una sorta di lettera meravigliosa nella quale tu esprimi dei sentimenti intensissimi, molto forti e allo stesso tempo positivi, ma anche che scavano nel profondo. Come fai, cioè, hai l'impressione che tu viva al 150% tutti i tuoi sentimenti? E quello di cui parli, ti ringrazio per questa domanda, perché non ci arriva mai nessuno a leggere i crediti del disco e invece c'è un lavoro di puntiglio, di passione, di pancia, di cuore dietro un disco, che non si ferma soltanto alle tracce vocali ovviamente, e quello a cui fa riferimento è lo spazio che normalmente gli artisti occupano con i ringraziamenti. Io non ho neanche iniziato a scriverli questi ringraziamenti perché convinto del fatto che avrei lasciato fuori troppe persone, ho preferito scrivere questa lettera aperta, come dici tu, in forma quasi poetica, perché ha proprio dei paragrafi e utilizza delle forme ricorrenti. Perché mi sembrava molto più utile tentare di dare sfogo libero a ciò che veramente sentivo che fare un elenco sterile, perché tanto ero convinto che che i destinatari di quello che stavo dicendo si sarebbero riconosciuti. E quindi c'è un po' di tutto, c'è la gratitudine, c'è il timore verso chi magari non è stato del tutto non lo so, forse non lo so, celebrato nella mia vita come amico, come persona che mi stava accanto, c'è la gioia, ci sono i dubbi, ci sono le fragilità, ma c'è anche l'allegria, c'è l'amore, i quesiti ricorrenti, quelli ai quali poi non troviamo mai i dubbi. Insomma, io invito a chi ha voglia a leggerselo, perché molto spesso le persone mi chiedono: ma come sei, chi sei? Mi fanno mille domande, però poi spesso non ascoltano, non leggono, e sarebbe molto più semplice a volte. Invece a quel bambino della foto che c'è sempre nel booklet, cosa dici quando gli parli, a te stesso bambino? Ma sai, è una delle cose che mi viene in mente più spesso, cioè se avessi una macchina del tempo dove andrei? E ti assicuro che, al contrario di quello che farebbero molte persone che tornerebbero all'epoca dei Romani, degli Egizi o al Medioevo, al Rinascimento, io tornerei agli anni Ottanta, perché vorrei rivivere quel periodo con la coscienza di adesso e poi rincontrarmi, perché in realtà penso che sono ancora mille gli insoluti con quel bambino, però di fronte all'impossibilità di farlo mi rendo conto che in fondo è andata bene così, e quegli insoluti hanno poi reso, mi hanno reso sicuramente più forte, hanno scatenato a cascata tante cose giuste e tante cose belle, quindi forse lo lascerei fare, non gli direi niente. Ti chiedo un'ultima cosa. Sai che a quelli come me che non credono più nell'amore, quando poi sentono le tue canzoni dicono: vabbè, ci credo ancora un po'. Hai una responsabilità gravissima, lo sai? Beh, non credere nell'amore e dirlo in maniera così palese, mi dispiace dirlo così, insomma, in maniera così pubblica davanti a tutti, secondo me è semplicemente la verbalizzazione del bisogno di vedere il contrario, di vedere di fronte ai propri occhi la dimostrazione che comunque le cose non sono così. Io penso che tutte le forme di amore siano accettabili, anche quello contrastato, anche il tormento, perché nel momento stesso in cui noi accettiamo le facce dell'amore e lo viviamo per ciò che è, lo rendiamo semplice. Io penso che a complicare l'amore sia sempre l'essere umano, quando vuole mettere in piedi delle tattiche, dei trabocchetti, o vuole fuggire a parti o a lati dell'amore, che comunque sono parte di un pacchetto, che rimane semplice semplicemente se tu lo vivi per ciò che è. Poi è chiaro che nella semplicità esiste anche la controversia, il dolore, il fastidio, però è anche vero che a volte sopravvalutiamo delle cose che invece passano prima di quello che pensiamo. Io voglio regalarti la mia vita. Chiedo tu cambi tutta la mia vita ora. Ma perché la Cagnola avrà scelto Indietro? Perché è la mia preferita, e quindi me la scelgo da sola, la mia canzone preferita di Tiziano Ferro. Allora, l'ho incontrato qualche giorno fa, Tiziano ha detto che adora Radio 24, che ascolta tantissimo Radio 24 e che non vede l'ora di venire qua, quindi Tiziano, vieni quando vuoi. Io gli ho detto: guarda, ti facciamo pure il badge per entrare quando ti pare, entra in onda, fai quello che vuoi. Un uomo veramente straordinario, una persona, avete sentito, di una dolcezza, di una profondità, sono un po' di parte, mi piace tanto. Beh, insomma, Tiziano Ferro, ho anche twittato l'autografo con la dedica che mi sono fatta fare. Ci ritroviamo tra poco, perché abbiamo tutti i nostri consigli mentali anche per fare del bene questo fine settimana, tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Sono ancora un po' sotto l'effetto di Tiziano Ferro, che è il numero uno dappertutto, classifiche digitali, copertine dei giornali, il brano più trasmesso dalle radio, insomma sono un po' di parte, mi piace tanto tanto tanto. Vi ricordo il numero per i vostri sms: 349-238-6666, il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV. C'è Emiliano, che è un amico, che mi ha mandato una foto che ci sta ascoltando in piscina, non so dove, perché è in costume da bagno, chissà dov'è questo bel tempo, e poi invece parchi con le foglie d'autunno da Mario Merlo, adesso anzi lo retwitto, guarda qua che bel prato con le foglie d'autunno. Però ora abbiamo parlato di amore e di sentimenti con Tiziano Ferro, chissà se ce ne saranno anche nei libri di cui parliamo in questo nuovo appuntamento, appunto con i libri, nel sabato del villaggio. insidioso, il pendio dell'abbandono. Affranto e compassionevole, il buon Dio osserva inerte umane ricchezze e miserie. Intanto la notizia è che Carmen Consoli torna dopo anni, non vediamo l'ora, finalmente Carmen Consoli torna a pubblicare. Vabbè, la notizia è arrivata in questi giorni, ma noi dobbiamo parlare di libri. Cosa c'entra Carmen Consoli? Buongiorno Alessandra, buongiorno Alessandra Tedesco. Ciao Marta, cosa c'entra? Sai che io ti porto sempre delle musiche che introducono dei libri. In questo caso è la colonna sonora dei I giorni dell'abbandono, che era un film che era stato tratto da un libro, l'omonimo libro molto molto famoso, I giorni dell'abbandono di... Elena Ferrante, lo so anch'io, perché è il personaggio di cui si parla di più in assoluto nel mondo letterario, ma proprio nel mondo letterario. Sì, nel mondo, hai ragione, hai detto la parola giusta, perché dei libri di Elena Ferrante si sta parlando tantissimo in questo periodo, perché ultimamente è uscito la quarta puntata della sua quadrilogia dell'Amica Geniale. I titoli ve li ricordo: L'Amica Geniale, appunto, che era uscito nel 2011, poi Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale volume secondo, Storia di chi fugge e di chi resta volume terzo, e ora Storia della bambina perduta, L'Amica Geniale volume quarto, che ovviamente è in classifica ed è uno dei libri di cui si parla in questo momento, ma come dicevi giustamente tu Marta, a livello mondiale, perché Elena Ferrante, di cui non si conosce l'identità, non si sa chi sia, non si sa se sia un uomo, una donna e chi si celi dietro questo pseudonimo, è molto molto famosa negli Stati Uniti, cosa molto difficile per gli scrittori italiani. Negli Stati Uniti i suoi libri hanno venduto circa 150.000 copie, che ti assicuro è un risultato eccezionale. In Italia siamo sulle 200.000, più insomma le copie che sta vendendo adesso su quest'ultimo, insomma quest'ultima puntata, che è la storia di una grande amicizia fra due ragazzine. Inizia a Napoli, si segue prima insomma la loro infanzia, poi la giovinezza, gli amori, i problemi, l'andar via da Napoli, il tornare, insomma questa è l'ultima puntata. Beh, allora intanto tu hai detto più famosa forse negli Stati Uniti che in Italia. Secondo me diventerà ancora più famosa in Italia, perché ho saputo che stanno girando delle miniserie Rai Fiction, tra l'altro con curatore Francesco Piccolo. La cosa mi piace molto, però dimmi la verità Alessandra, tu hai detto che non si sa chi è. Degli addetti ai lavori non si sa, si fanno delle supposizioni. Si pensa che possa celarsi dietro il nome di Elena Ferrante lo scrittore Domenico Starnone, qualcuno dice che possa essere il critico Goffredo Fofi, qualcun altro dice che sia lo stesso editore della casa editrice EO che li scrive insieme alla moglie. Insomma, la verità è che nessuno lo sa, tranne l'editore con il quale questa persona firma i contratti. Pazzesco, che sia davvero un mistero. E a proposito del successo della Ferrante, lei è stata inserita tra l'altro ultimamente fra i 10 pensatori più influenti del mondo da una rivista che si chiama Foreign Policy, quindi insomma si occupa di politica internazionale. Gli unici due italiani sono Elena Ferrante e Matteo Renzi, scegliete voi. Scegliamo. Tra l'altro so che c'è una scrittrice che è molto appassionata di Elena Ferrante, e siccome tutto si tiene, lei è la scrittrice di Olive Kitteridge, che arriverà presto in una miniserie televisiva bellissima che ho già visto per HBO. Ma davvero, cioè, Elizabeth Strout, premio Pulitzer, ama Elena Ferrante. Sì, la ama tantissimo, ho detto è molto amata negli Stati Uniti Elena Ferrante, sia dal pubblico diciamo normale sia degli scrittori. Ecco che cosa appunto mi aveva raccontato Elizabeth Strout qualche tempo fa parlando di Elena Ferrante. My own personal feeling is that it's a woman, and it could be, obviously I don't know. La mia sensazione è che sia una donna, ma potrebbe essere anche un uomo. Onestamente non lo so e non mi interessa molto. No, non mi interessa se è una donna o un uomo. Il motivo per cui penso che sia una donna è quello per cui molti pensano che sia un uomo. Cioè la sua scrittura è molto, molto onesta e molto forte, e credo che forse per la gente sia difficile pensare che una donna vada avanti dritta e butti giù tutto sulla pagina. And I think that it's perhaps difficult for people to think that a woman is going to go ahead and put that on the page. Gli applausi sono per Elena Ferrante, per Elizabeth Strout, per me, per chi sono? Anche per la Tedesco, scusa, Alessandra non capisco. Perché? No, perché ti ho portato gli applausi? Perché, vabbè, è un giochino un po' stupido, me ne rendo conto, perché l'altro libro di cui si sta parlando moltissimo in questo periodo è quello di David Grossman. Mi raccomando, non lo chiamate David Grossman perché lui è israeliano e il nome è David Grossman, ed è Applausi a scena vuota, pubblicato in Italia da Mondadori. Se ne sta parlando molto anche perché la settimana scorsa è stato ospite di Che Tempo Che Fa di Fazio, oltre che anche di Radio 24, diciamolo. Quindi non buttiamoci, insomma, giù. Però insomma se ne sta parlando molto anche in seguito a questa ospitata televisiva, insomma. A chi consigliamo questo libro? Di cosa parla? Allora, il libro è veramente molto bello, è una struttura letteraria bella. Il protagonista è un comico che si chiama Dovalé, sta sul palco, inizia a raccontare delle barzellette, poi all'improvviso da questo tono, diciamo, scherzoso passa a un tono molto più serio, inizia a raccontare la sua vita fatta anche di tragedie. Fra il pubblico presente, che rimane naturalmente sconcertato da questo atteggiamento del comico, ci sono due persone a cui lui in particolar modo si rivolge: un vecchio amico, un giudice che quando erano ragazzini l'aveva abbandonato in un momento molto critico della sua vita, e una donna piccola, proprio si di piccola fisicamente la descrive David Grossman, che lo guarda e fa emergere, come dire, la parte buona di questo Dovalé. Ed è proprio su questo sguardo di questa donna piccola, lo sguardo buono delle persone, che David Grossman ci ha raccontato qualcosa. The little lady, and by the way, maybe she's little also because she preserved childhood. La piccola donna forse è piccola anche perché preserva questo suo essere bambina, non solo nel senso di essere infantile, ma anche nel senso di essere pura. Lei lo vede in modo estremamente positivo. Gli dice addirittura: eri un bravo bambino. E questa cosa fa sì che Doval, in un certo senso, si spezzi e che abbia l'energia di raccontare questa storia per la prima volta. Ognuno di noi ha bisogno e merita qualcuno che lo guardi con degli occhi buoni, qualcuno che riesca a riconoscere quello che c'è di buono in noi e che lo faccia, in un certo senso, arrivare in superficie. Qualcuno che semplicemente guardandoti possa trasmetterti la sensazione di avere ulteriori possibilità di comportarti in un modo buono. La storia non è solo quella di un performer, è anche la storia del modo in cui le persone guardano o non guardano all'altro. È la storia della crudeltà che è insita nell'indifferenza, nel non volersi accollare nemmeno un grammo della vita degli altri e del non voler neppure ascoltare non solo le sofferenze, ma addirittura la storia degli altri. To this other, or to the suffering of this other, or to the story of this other. Non posso impedirti di inciampare, però posso medicare il tuo piede ferito e prenderti in braccio fino a quando non sarai in grado di camminare sulle tue gambe. Avrò cura di te. Eh beh, per questo ti ho portato Franco Battiato, che è anche il mio cantante preferito, però insomma in questo caso era d'obbligo, perché Avrò cura di te è il libro di Massimo Gramellini e Chiara Gamberali, pubblicato da Longanesi, che consiglio questa settimana a chi, nel periodo, come dire, prenatalizio, ha voglia di emozionarsi, sentimenti profondi, intensi, perché insomma Massimo Gramellini come uomo, scrittore uomo, e la Gamberale come donna hanno sempre questo stile in cui vanno a ricercare, come dire, i pensieri più profondi, l'intimità dei personaggi, l'emotività, anche gli aspetti psicologicamente magari anche disturbati, e li fanno venire fuori. Quindi sentimenti per chi volesse leggere o regalare un libro, perché ormai siamo pronti, ci siamo pronti. Bimbi, consigli per chi vuole regalare, comprare, far leggere un libro a bimbi? Allora, bimbi, prima di Natale, durante e dopo, si intitola Che notte è questa? 8 racconti di Natale, pubblicato da Einaudi Ragazzi. Sono storie appunto ispirate al Natale, raccontate però scritte dai più grandi autori per bambini che abbiamo in Italia, per esempio Pier Domenico Baccalario, Roberto Piumini, Beatrice Masini tra l'altro è la traduttrice italiana di Harry Potter, molti non lo ricordano, però è una garanzia. Insomma, sono veramente delle storie belle e storie d'autore per i bambini. Che belli vedere questi bimbi, guarda, te li faccio toccare, proprio, questo libro. però bello blu e rossa la copertina. È molto carino. Abbiamo parlato di cibo in questo sabato del villaggio. Noi che parliamo tanto di tendenze, è impossibile smettere di parlare di cibo in televisione. Oggi ne abbiamo parlato con Chef Rubio. Libri che riguardano il food? Guarda, ce ne sono tantissimi. Io ne ho scelto uno che mi ha incuriosito particolarmente. Si intitola Sushi più che mai. Fermi, sushi con la C, non con l'H. Quindi non stiamo parlando del sushi giapponese. L'hanno scritto Moreno Cedroni e Cinzia Benzi. Moreno Cedroni è uno chef stellato, 2 stelle Michelin, mentre Cinzia Benzi è un'esperta di gastronomia. Il libro è pubblicato da Giunti. Dicevo sushi con la C perché praticamente che cosa si è inventato Cedroni? Sì, il pesce crudo, ma a posto di ingredienti tipicamente giapponesi, per esempio a posto dell'alga nori, utilizza la melanzana. A posto del riso ci mette la mozzarella. Insomma, ingredienti mediterranei che si fondono con elementi tipici del sushi giapponese. Quindi questo sushi più che mai, io non amando particolarmente il sushi, insomma ho detto va bene, secondo me può essere interessante ed è bello perché ci sono delle illustrazioni che ti spiegano come sfilettare il pesce così e delle fotografie meravigliose dei piatti finiti. È l'ora del tè, ma già la fame comincia ad avanzare. L'ultimo consiglio è quello radiofonico. Il cacciatore di libri quando, Alessandra? E beh, questa sera alle 22 dopo il GR ci sarai anche tu, Marta Cagnola. Ma sì, ci sarò anche io. Siamo questo scambio di favori perché manderò in onda l'intervista integrale a David Nichols che avevi fatto tu appunto qualche tempo fa. E poi Sophie Kinsella, anche in questo caso ne avevamo dato un'anticipazione in il sabato del villaggio, ma ci sarà la versione estesa. Grazie ad Alessandra Tedesco. Ci ritroviamo con il cacciatore di libri e insieme la prossima settimana al sabato del villaggio. Ciao. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con la seconda mezz'ora della seconda ora del sabato del villaggio, il sabato in diretta di Radio 24. Come sempre i vostri sms al 349-238-6666. Mi sono tolta gli occhiali e non riesco a vedere lo schermo, vabbè, poi li controllo. E invece il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, l'hashtag ISDV come le iniziali, il sabato del villaggio. Seconda parte della seconda ora, abbiamo parlato di libri con Alessandra Tedesco e poi invece dalle 17 alle 18 ci sarà il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Aspetto Daniele Bellasio per la prossima ora del sabato del villaggio e tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ora però è il momento dei consumi e delle nuove tendenze. Per parlarne ci affidiamo alla nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Oggi però è una giornata particolare e ne parliamo subito. Buon pomeriggio Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, a te, agli ascoltatori. Parliamo della giornata nazionale della colletta alimentare, un'iniziativa, una bella iniziativa che torna ogni anno più o meno in questo periodo, sempre di sabato, il giorno per molte persone dedicato alla spesa settimanale magari. Ecco, vorrei ricollegare questa iniziativa a due delle parole chiave più importanti in questo momento nel mondo dei consumi: responsabilità, perché le decisioni di acquisto sono sempre di più atti di responsabilità nei confronti dell'ambiente, di un sistema economico, di un modello di consumo. Responsabilità, dunque, la prima parola. La seconda è redistribuzione, perché non lo dico solo io, sono in molti a dirlo in questo momento, la crisi ha dimostrato l'urgenza di modelli di consumo più sostenibili sia a livello sociale che ambientale. Per parlarne abbiamo Antonio Oliva, che è il vicepresidente della Fondazione Banco Alimentare Oggi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Allora, raccontiamo agli ascoltatori di cosa si tratta. Questa iniziativa che cosa prevede? In oltre 11.000 supermercati sparsi per il paese troveremo i vostri volontari. Sicuramente sì, e come le ha detto, i nostri volontari sentono fortemente la responsabilità di essere presenti davanti ai supermercati per invitare tutti coloro che andranno a fare la spesa di condividere un gesto di carità, un gesto di dono che ci consentirà di aumentare le scorte dei nostri magazzini e poter immediatamente, già dalla settimana successiva, ridistribuire i prodotti che ci saranno stati donati a chi non può permettersi di fare la spesa. Come funziona? Noi arriviamo al supermercato, troviamo dei volontari che hanno i sacchettini gialli, sono i sacchettini, io mi ricordavo. Non esattamente no. I sacchettini, perché da quando sono stati introdotti i sacchettini biodegradabili abbiamo voluto economizzare sulle nostre spese e quindi abbiamo eliminato questa spesa per restare in costi sempre più contenuti. Ah, i nostri volontari sono identificabili perché hanno una pettorina gialla e offriranno a chi si accosterà a noi un sacchetto di qualsiasi tipo, a volte donati dai supermercati, a volte procurati o acquistati dai volontari stessi, nel quale si chiederà di mettere anche una semplice scatola di tonno o di carne in scatola, ma soprattutto prodotti per l'infanzia, perché nei 6 milioni di poveri che in questo momento l'Italia conta, circa 1 milione sono minori e di questi 400-450 mila bambini che non possono essere nutriti correttamente. Ricordiamo dove vengono poi distribuiti questi alimenti che raccogliete. Certo, noi abbiamo 21 sedi distribuite su tutte le regioni italiane presso le quali i prodotti saranno stoccati e immediatamente, dicevo, saranno poi, secondo un piano di consegne, date alle circa 9.000 strutture caritative che fanno pacchi alimentari, mense, distribuzioni di derrate direttamente ai poveri presso le loro sedi. Per cui tramite questa enorme rete capillare sul territorio noi riusciamo a raggiungere circa 2 milioni di bisognosi. Bello, perché insomma direttamente vengono distribuiti, gli ascoltatori così possono stare tranquilli che... Assolutamente. Un italiano su 10, leggo dal vostro profilo stampa, soffre di povertà alimentare. Ecco, ricordiamo che cosa significa questa definizione. Beh, significa che nel distribuire le poche entrate di cui queste persone dispongono non c'è spazio sufficiente per poter fare la spesa tutti i giorni, non c'è spazio sufficiente per poter mangiare regolarmente come facciamo tutti noi, e questo significa che devono ricorrere alle mense dei poveri, che devono saltare qualche pasto, che devono avere i loro figli denutriti, e di conseguenza sempre di più questa domanda bussa alle porte delle nostre strutture caritative e sempre di più siamo a nostra volta sollecitati a fare di più, a fare meglio e a aumentare ancora la nostra attività che si svolge 365 giorni all'anno. Persone in realtà, Marta, molto più vicine a noi di quanto non si immagini. Grazie, grazie ad Antonio Oliva per essere stato con noi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Maria Luisa, mi è piaciuto parlare di questa cosa molto bella che possiamo fare per gli altri semplicemente andando a fare la spesa. Adesso sabato pomeriggio andiamo tutti a fare la spesa, ce ne ricordiamo. Però è anche il momento dei nostri consigli anticrisi. Assolutamente sì, lo sai Marta che questo è il primo weekend dedicato allo shopping natalizio. Oggi è il 29 di novembre, direi proprio di sì. Quest'anno purtroppo iniziamo dalle cattive notizie, poi invece andiamo sull'ottimismo. Quest'anno purtroppo il budget è sempre più magro, complessivamente ha stimato la Coldiretti, si parla di 199 euro a famiglia per le spese di Natale contro una spesa media dell'Unione Europea pari a 252 euro. Lo dico oggi perché negli Stati Uniti si è reduci dal famosissimo Black Friday. Comincia ad andare di moda anche da noi però il Black Friday, ho visto. Sì. In qualche modo passa un po' di moda il concetto di Friday negli Stati Uniti perché nella liquidità del commercio attuale online, offline, il venerdì solo non conta più molto, quindi magari il Friday diventa una settimana intera perché poi l'online anticipa gli sconti, perché allora l'offline, per combattere l'online, inizia a lanciare gli sconti qualche giorno prima. Insomma, gli analisti dicono che ormai il Black Friday si trasformerà in una Black Week, una settimana intera di sconti e promozioni che tra l'altro, notizia, il Codacons chiede di trasportare anche in Italia. Ah beh, l'importante è che possiamo approfittarne un po' anche noi, insomma, che le nostre tasche stiano un po' meglio e che ci consentano di fare qualche acquistino allora per Natale. A questo proposito la domanda, l'obiettivo che ci siamo dati oggi è: conviene comprare subito o aspettare le promozioni magari sotto Natale? La risposta è difficilissima. Per aiutarci, come sempre, chiediamo la consulenza della direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, aspettiamo i tuoi consigli illuminati. Partiamo dall'alimentare, andiamo per settori, così iniziamo a riordinare le idee. Allora, per l'alimentare io direi spesa adesso approfittando degli sconti che non rimarranno per tantissimo, perché più o meno tutti verso il 10-12 di dicembre, vuol dire, li smettono un po' per poi riapprofittarne proprio in dirittura d'arrivo, per cui proprio il 22, il 23 o addirittura il 24, dove normalmente sui tipici del Natale, per cui spumante, panettone, salmone, per citarne alcuni, invece vengono riabbassati i prezzi. Non proprio su tutti, perché poi ricordiamoci c'è comunque Capodanno, che è un altro momento di spesa, per cui io direi la spesa, quella importante, facciamola adesso. Se poi si vuole risparmiare in maniera più globale, più, come dire, andando proprio sul discount, Lidl sta facendo, devo dire, un ottimo lavoro, ha creato una linea che si chiama proprio Lux da lusso, con un catalogo ad hoc, con una selezione al gambero rosso, dove offre tutta una serie di vini francesi, champagne eccetera eccetera, ma anche aragosta e così via, a dei prezzi discount. Se passiamo invece ai regali, ad esempio, so che in tanti pensano a regali di elettronica, vale la pena andare adesso in negozio, aspettare? Ma guarda, adesso è proprio adesso, ormai il Black Friday è andato, però rimane il Cyber Monday. In linea di massima, almeno su Amazon eccetera, si può puntare e vedere se anche su Amazon.it qualcosa di elettronico, e quindi vuol dire lunedì. Questo è il Cyber Monday che si sono inventati gli americani per allungare questa benedetta settimana, che prima era un giorno e adesso sta diventando un periodo. C'è chi da noi ha preso lo spunto dal Black Friday, per cui dal 27 novembre ad esempio si fanno partire gli sconti natalizi, che finiscono poi il 12 gennaio. Diciamo che oggi l'elettronica di consumo è più facile trovarla scontata, oppure ci sono, per chi si abbona eccetera con Media World, la possibilità di avere poi delle segnalazioni direttamente sul cellulare sul prodotto che viene dato in sconto, in promozione, con un numero di pezzi ridotto, ma che di fatto, se si riesce a metterci le mani sopra, sono dei grandi affari. La regola, come sempre, è informarsi e surfare tra le insegne, come si usa dire. Cristina, ecco, un altro capitolo importante delle spese del periodo, i giocattoli. Come dimenticarsi dei giocattoli, anche perché un sorriso del proprio bambino quando apre il pacco di Natale è imbattibile, impagabile. Però detto questo, anche lì magari cerchiamo di risparmiare qualche soldino sull'acquisto. Amazon, devo dire che è praticamente imbattibile, almeno sulla quantità, poi magari ci sarà quel prodotto che è in promozione all'ipermercato. Diciamo che Amazon e l'ipermercato dovrebbero essere i due punti dove andare a dare un'occhiata, almeno sui giocattoli più costosi, altrimenti Amazon, che come immagino molti degli ascoltatori sanno, ha anche la possibilità, se li ordiniamo adesso, di averli per Natale senza pagare nulla, perché c'è la formula Prime che te li fa arrivare a casa senza pagare nulla. Certo, se poi ci avviciniamo troppo al Natale, lì la consegna va pagata, per essere sicuri di averli sotto l'albero al momento giusto. C'è anche la possibilità di fare la lista dei desideri, quindi, come ho fatto io con la mia bambina, che le ho chiesto di fare una letterina a Babbo Natale digitale, e quindi abbiamo trovato una serie di doni su Amazon e poi li abbiamo girati a parenti e amici. Ma c'è anche la scatola del giocattolo.it, che è stata creata insieme a Mattel, che più o meno funziona allo stesso modo e ha quindi la possibilità di consigliare anche, come dire, a chi non trova una lista dei desideri direttamente sul sito, comunque anche di cercare il regalino per il nipotino o per il figlio degli amici, sono divisi per età, per sesso, e quindi in qualche maniera di orientarsi un po', anche se magari non si è espertissimi di bambini. Cristina, so che hai una dritta in particolare invece per quanto riguarda le decorazioni natalizie. Ecco, le decorazioni natalizie, e ahimè qui rimango un po' su Milano essendo milanese, ma questo lo dico più da consumatrice che da esperta di retail, alla Rinascente in genere 3-4 giorni prima del Natale, c'è la Rinascente Duomo a Milano, ma immagino lo facciano in tutte le Rinascente d'Italia, si parte col metà prezzo anche gli alberi di Natale, le decorazioni bellissime, decoratissime. Diciamo che se si va intorno al 20 già si comincia 20% meno 30%, e poi il 23 sera è tutto al 50% o al 70%. Quindi se volete farvi un albero di Natale last minute però a metà prezzo, beh, aspettate l'ultimo momento. O magari giocare d'anticipo, Marta, sul per Natale l'anno dell'anno prossimo, così è già tutto fatto. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Cristina, invece con te Maria Luisa l'appuntamento con Essere Avere domani alle 15. Grazie Maria Luisa e alla prossima settimana anche col Sabato del Villaggio. Grazie a te, un saluto a tutti. Il Sabato del Villaggio. Grazie anche a chi su Twitter mi manda le foto dai luoghi da cui state ascoltando il Sabato del Villaggio, magari in streaming sul sito di Radio 24 con l'app di Radio 24, al mio account di Twitter @MartaCagnola con l'hashtag ISDV, però ditemi anche dove siete perché le foto mi incuriosiscono molto. Ultimo blocco, ultimo quarto d'ora della seconda ora del Sabato del Villaggio e poi staremo ancora insieme, ma stiamo aspettando Daniele Bellasio per RadioTube, un argomento delicatissimo. Non so quanti di voi si ricorderanno di questa affermazione andata in onda alla Storia Siamo Noi il 9 settembre 2010. Certo, era una persona che in termini romanistici direi se l'andava cercando. Giulio Andreotti, Ambrosoli se l'andava cercando. Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona, assassinato nel 1979. Una frase detta appunto alla Storia Siamo Noi che creò molte polemiche. Torneremo a parlare a Radio 24 della storia umana e non solo di Giorgio Ambrosoli martedì mattina in Mix 24, la storia. Di questa vicenda, delle vicende di Giorgio Ambrosoli parla una fiction, la fiction italiana che spesso parla della storia italiana recente, l'1 e il 2 dicembre su Rai 1, la miniserie in due puntate, Qualunque cosa succeda, il protagonista bravissimo Pier Francesco Favino. Anna carissima, è indubbio che pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Ho sempre operato nella piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici. Cosa succede? Tu sai che cosa devi fare. Sarà per te una vita dura, ma farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Giorgio. Ho deciso di nominarla liquidatore unico della banca privata italiana. Come ha detto che si chiama? Ambrosoli. Mai sentito nominare. Perché io sono uno sconosciuto. I soldi possono comprare cose e persone. Le do la mia parola che tutto sarà fatto secondo giustizia. Quello si è montato la testa. Ti ricordi quando dicevamo di volere un paese migliore? Che lo vogliamo ancora, no? Lo conoscevo ovviamente per curiosità personale nei confronti della storia del nostro paese. Il primo approccio a questo progetto è stato il romanzo di Umberto. Romanzo, racconto, saggio, non so, che mi è stato dato da Matteo Levi qualche tempo fa. E poi quando Alberto mi ha detto che voleva farlo, insomma, vista anche l'abitudine felice a lavorare insieme, ho detto bene, quando iniziamo, quando si fa. E dopodiché l'approccio oltre a questo è stato ovviamente quello di cercare delle fonti che fossero dirette, per cui articoli dell'epoca, tentativo di trovare qualche materiale video, ce n'è pochissime, c'è una sola intervista che lui ha rilasciato a una televisione svedese in cui ho potuto vedere un po' la sua gestualità, ho potuto capire intuire un po' meglio la qualità della sua timidezza, della sua voce, del suo modo di muoversi, che racconta tanto secondo me dell'uomo. Ovviamente gli audio che ci sono delle minacce ricevute, che sono consultabili tranquillamente online, e che già avevo sentito una volta in una puntata di Lucarelli, mi avevano particolarmente colpito, ma ha particolarmente colpito l'apparente fermezza della voce di Ambrosoli. E poi appunto, come per qualsiasi lavoro di questo tipo, insomma, inizia una specie di indagine, no? E inizia a cercare di capire che uomo c'è dietro la figura pubblica e che cosa può essere passato nella mente, nel cuore di quest'uomo. E da lì inizia questo viaggio interessante, bello e rischioso anche. però insomma corroborato dalla presenza della famiglia, aiutato ovviamente da Alberto e da una sceneggiatura solida. E quindi le fiction, le miniserie TV e i film TV, come preferite chiamarli, non sono solo una tendenza, non sono solo un grande filone della televisione italiana, ma possono avere anche un'importanza sociale. Ne abbiamo parlato proprio con l'autore del libro da cui è tratto Qualunque cosa succeda, che è il figlio di Giorgio Ambrosoli, Umberto Ambrosoli, che ha detto: non è stata una decisione scontata decidere di consentire di rendere questo libro una serie TV. Non è scontata, la si fa con timidezza, con qualche timore, è un po' un salto nel vuoto, però se l'obiettivo è quello di divulgare il più possibile questa storia, oggi gli strumenti per divulgarla non sono la carta stampata, non sono i giornali, non sono i libri, per divulgarla nella maniera massima. Oggi gli strumenti di trasmissione sono questi, fra 20 anni ci diremo che sono i videogame, però in questo momento l'occasione è data dalle miniserie TV. Tradurre sempre tradire, e quando si fa una versione cinematografica o televisiva di un'opera si utilizza il verbo ridurre e non è un caso. Quando lei ha visto poi l'opera finita, cosa ha pensato? Che il senso sostanziale della storia era completamente reso, era trasferito, trasmesso, era reso disponibile. È stata ricordata una scena prima, durante la conferenza stampa, della rogatoria. Io ho assistito alle riprese, l'unica riprese alle quali ho assistito, e mentre le vedevo dicevo: non c'entra niente con la figura di mio padre, non c'entra niente con la ricostruzione di come è andata quell'udienza, non c'era un giudice americano, c'era un giudice italiano. Ma cosa conta? Conta quella cornice o conta il senso, l'efficacia anche narrativa? Molto probabilmente, se noi avessimo i filmati di quel momento sviluppatosi nel luglio del 1979, oggi non li guarderebbe nessuno. 35 anni, quindi noi dovremmo dire che vivessimo in un paese normale, tutto sarebbe, no? Risolto, i problemi delle banche con le banche, le collusioni col potere. Non viviamo in un paese normalissimo, però. Io temo che viviamo in un paese normale, perché questa è quello che succede in tutto il mondo. Guarda che questa storia rappresenta due fallimenti, uno è quello della banca privata italiana, l'altro è quello della Franklin National Bank. Coesi, pochi giorni di distanza, la stessa proprietà, Michele Sindona. Eppure la Franklin National Bank era una delle principali banche americane, è riuscito a far fallire anche quella, è riuscito ad acquisirla illecitamente, utilizzando degli strumenti per le sue banche italiane non dissimili da quelli che Lehman Brothers ha utilizzato per determinare il crack, che di dimensione è stato ancora di gran lunga maggiore, eppure in un paese normale è successo pochi anni fa. Hanno chiesto una cosa molto bella, le hanno chiesto se Giorgio Ambrosoli oggi sarebbe solo, e lei ha detto: dipende da noi. E questo è quello che ci dobbiamo domandare: se le solitudini non le determiniamo noi, con la nostra assenza, con la nostra disattenzione, in alcuni casi con la nostra pigrizia, se non addirittura il nostro disinteresse. Cioè, se non siamo cittadini attenti e vigili per capire verso chi dobbiamo indirizzare la nostra vicinanza per impedire delle solitudini. E questo era Umberto Ambrosoli, quindi io vi ricordo gli appuntamenti per ricordare o per scoprire la storia importantissima di Giorgio Ambrosoli in televisione su Rai 1, la miniserie in 2 puntate Qualunque cosa succeda, l'1 e il 2 dicembre, e su Radio 24 martedì mattina Mix 24 la storia, proprio per ricordare Giorgio Ambrosoli. Noi ci ritroviamo tra poco, perché abbiamo la terza ora del Sabato del Villaggio, che poi è quella di Radio Tube. Sta per arrivare Daniele Bellasio, tutta l'attualità della rete, e dalla rete ci ritroviamo tra poco, perché ora è il momento di GR24.